piangerò, tu lo sai, quando lontana da me te ne andrai, dentro di me morirò sorridendo, però con un bacio un addio ti darò. Non piangerò, tu lo sai, quando per sempre lontana sarai, ed allora penserò ai momenti d'amore, un'estate vissuta con te. Piangerò, tu lo sai, quando per sempre lontana sarai, ed allora penserò ai momenti d'amore, un'estate vissuta con te.